Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È giusto l'educazione sessuale portarla nelle scuole? È giusto, ma alla giusta età, ecco quello. Perché a 8 anni non sanno ancora nulla? No, sanno, però magari nel modo sbagliato, e c'è un'età per tutto. Parli ai tuoi figli tu di educazione sessuale? Sì, mi fa domande, però alcune ho risposto, ad altre ho detto quando sarà il momento te lo spiegherò con le parole appropriate. Ma sicuramente secondo me è giusto parlarne, io ne ho parlato, soprattutto il padre perché è un maschio, e sono d'accordissimo nel dirlo a scuola, parlarne tranquillamente, perché no? Certo che è giusto, ma da quando era piccolo mio figlio, che ha quasi 40 anni, che io lo sto predicando. Lei ne ha sempre parlato di sesso, sì, nei dovuti, sì, modi? Sì, senza imbarazzo, assolutamente, non sono né sfacciata né altre cose. Insomma, non si è mai trovata imbarazzata? No, assolutamente, perché io prima mi documento sui libri, so come trattare l'argomento e poi lo tratto. Brava. Secondo te l'educazione sessuale nelle scuole serve? Sì. Perché? Per aiutare i giovani a capire quello che Sì, tutti a parole, tutti pronti, tutti aperti, tutti leggono i libri, tutti studiano, tutti sono disponibili. Intanto i ragazzini hanno YouPorn e lì capiscono esattamente come non si fa, come nel paese delle meraviglie può accadere, ma non accade mai nella realtà. E poi in realtà crescono e si pongono dei problemi. Per ovviare a questa sorta di repentina e condensata affabulazione sulla materia dell'accoppiamento multiplo e fantasioso, una scuola italiana, una scuola media, la scuola primaria di Sant'Agnese di Modena, abbiamo telefonato questa mattina, ha detto la dirigente scolastica che non vuole parlare di questo argomento, però ormai è cronaca, è uscita sui giornali, ha dato ai bambini un opuscoletto fotocopiato dal titolo Amarsi, che era un opuscoletto che voleva dare una sorta di istruzione tecnica su cosa realmente accade tra adulti, come nascono i bambini, la fatidica domanda, con un opuscolino illustrato in maniera anche molto garbata, in cui viene spiegato in maniera però esplicita, ma giustamente, ma cosa vogliamo continuare a parlare di api, di fiorellini, di pistiglie, di corolle? Dice semplicemente cosa fanno i genitori. E soprattutto la cosa che ha dato fastidio a qualche genitore, anche perché poi questo opuscolo è arrivato gli ultimi giorni di scuola e adesso cominciano le vacanze, i genitori poverini, che magari era l'unico mese che ci avevano per stare un po' sereni, tranquilli, ritrovare la loro affettività, che magari i bambini se ne stavano in spiaggia, se ne stavano un po' belli scalmanati, quindi dormivano, quindi era il momento, si accendeva qualche candelina profumata, ci si dava una pulitina in più, magari abbronzati veniva meglio, con la penombra, le lunghe nottate al mare, via dicendo, ridavano un po' sotto quello che si erano dimenticati di fare. E gli arrivano i bambini con questo opuscolino in mano, dove viene detto testuale: sono i rumori che fate qualche volta avete sentito provenire dalla camera a letto del papà e della mamma. Da cosa vengono questi rumori? E gli hanno spiegato chiaramente. Magari per anni si sono trovate le solite scuse: la mamma sentiva male, ha fatto un brutto sogno, il papà di notte russa, sappiamo, il letto cigola perché le molle vanno liate, queste cose qua. Invece no, glielo dicono molto chiaro. Dice: allora, il pene dell'uomo diventa grande e duro e la vagina della donna si inumidisce. Per tutte e due è molto bello quando la donna fa penetrare il pene rigido dell'uomo nella sua vagina. I due lo fanno muovere avanti e indietro nella vagina e provano un piacere intenso. Da qui i rumori che sentite venire dalla camera del papà e della mamma. Lo dico sorridendo. L'opuscolino è innocente, i disegni sono nulla di che, si vedono un papà e una mamma stesi che fanno l'amore nella posizione irreale del missionario con gambe di lei appiccicate incollate al lenzuolo, quindi è una metafora del fare l'amore, però questo è bastato perché qualcuno dicesse: beh, forse abbiamo esagerato. Ne siete convinti? Voi quale stratagemma avete trovato e scogitato per riuscire a risolvere l'equazione, dare i giusti rudimenti di sessualità ai vostri bambini senza che se ne stiano poi magari lì con l'occhio nel buco della chiave della vostra camera da letto per capire poi se quello che gli avete raccontato lo fate anche voi? 800 24 00 24, prendetela a ridere, non c'è niente di grave, non è successo nulla di male. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Tutti hanno gli organi sessuali, gli animali come gli uomini. Un pisellino. Sì, un pisellino, o pene, che è il termine più esatto. È l'organo sessuale dei ragazzi. Sotto il pisellino ci sono due sacche contenenti due palline chiamate testicoli. È all'interno di queste palline che si formeranno dei piccoli semi quando avrai 12 o 13 anni. Come sai, dal pisellino esce la pipì o urina, che è contenuta nella vescica. Quando hai voglia. Questa è una maniera molto tecnica, molto scientifica, per raccontare sempre le stesse cose. Io devo dire onestamente, non mi ricordo come lo raccontai a mio figlio maggiore, perché a Tommy non gli importa assolutamente nulla, non c'è niente da spiegargli. Ma probabilmente mi ricordo a sprazzi che all'elementare già sapeva tutto, probabilmente già da allora. È un ragazzo che ho già più di 20 anni, quindi non era poi proprio ieri. C'era una maniera per spiegare, attraverso una maniera che non ha dato fastidio a nessun genitore, quello che in realtà si dovesse sapere. Voi come risolvete il problema a casa vostra? Non tanto di dare rudimenti ai vostri bambini su quello che sia il sesso, ma di come gestire questa sorta di imbarazzante rapporto, perché se gli spieghi cosa si fa, gioco forza, alla fine ti chiedono se lo fai anche te. Non è più un problema che riguarda me, che ormai sono attempato, ma come pensate di riuscire nella difficile insonorizzazione delle case moderne a risolvere il problema, che poi i figli, come sarà accaduto ai piccoli alunni della scuola media Sant'Agnese di Modena, tornino a casa e dicono: papà, mamma, ma lo fate anche voi? Certo, è un passo ulteriore, già è difficile spiegargli le cose, poi anche dirgli che lo fanno anche papà e mamma, si teme di distruggere una sorta di mitologia, come dirgli che non c'è più Babbo Natale, che la Befana non esiste e via dicendo. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Ok. Allora, io ho un figlio di 13 e una di 21, e se capita lo facciamo, va bene, lo facciamo davanti a loro, si cerca di stare in silenzio, ma il gemito ci sta primo, secondo. Ma come davanti a loro? No, come davanti a... No, spieghi bene. Marco, che vuol dire davanti a loro? Davanti a loro? No, ognuno in camera sua. Spero. Davanti a loro, però siamo mica così in maiali. Beh, sì, spero. Nello stesso appartamento. No, però si cerca di farlo in... In sordina, in sordina. Mattina presto, quando non ci sono, hai capito? Però se ci scappa, approfittate, cioè, del sonno profondo la mattina presto. Beh, a volte sì, a volte no, dipende, se sono fuori è meglio. Ma prima andate a controllare che dormano, oppure vi fidate del silenzio che viene dalle camerette? Beh, alle 8 o 7 dormono ancora, quello è sicuro. Ah, quindi l'ora preferita per lei è dalle 7 alle 8, è l'ora migliore. Anche pomeriggi, quando non ci sono, uno va fuori a giocare a pallone, che c'è il campo davanti, quell'altra è sempre via. Ah, beh, così. Le normali strategie, diciamo, di dislocamento dei figli. Se scappa il gemito e ci sentono, che c'è, glielo diciamo, poi lo sembra, è una cosa più naturale che ci sia. Perché deve esistere un tabù in questo caso? Non lo so, facciamo delle domande, non lo so, sì, se ci scappa il genio, ma potete mettere anche una musica in sottofondo. Fare... Sei uno dei pochi che parla di questo, finalmente. Vabbè, ma non è che ci vuole tanto, ma non è vero che sono uno dei pochi, in questa radio se ne parla molto. In questo paese del cacchio ti chiamerà qualche suora, adesso blasfema, e noi abbiamo detto blasfemia, te lo dico io. Vabbè, comunque, il signor Marco ha detto: se ci scappa qualche gemito, diciamo, guarda, gli abbiamo dato sotto un po' più del solito e è scappato il gemito, pazienza. Con quella di 21 penso che sia abbastanza facile, forse con quello piccolino ci vuole un pochino più di delicatezza a spiegarglielo, no? Sì, certo, certo, però è già meglio che lui più di me, mi sa. Quanti anni ha detto il piccolo? 13. Beh, figuriamoci, certo ne sa più di lei, sicuramente, al 1000 per 1000. Franco Piacentini, buongiorno. Buongiorno. Allora, Franco Piacentini, invece, al di là della facezia, è responsabile del fatto che questa notizia sia girata. Frequenta suo figlio la quinta elementare della scuola Sant'Agnese di Modena. Lui aveva semplicemente, il signor Piacentini, scritto su Facebook qualche perplessità riguardo questo manuale, e questo è diventato notizia, è uscita sui giornali. Da cosa nasceva la sua perplessità, signor Piacentini? Ma guardi, in realtà quello che ho postato non era neanche una perplessità sul manuale, era... cioè, la frase che accompagnava il post era questa: non ho capito se le schede distribuite oggi ad Achille debbano essere il preludio dei compiti delle vacanze, punto. Dopodiché ognuno poi si è espresso come... Cioè, lei temeva che il temino delle vacanze era racconta cosa viene dalla camera di mamma e papà, questo poteva essere il tema. Non lo so, cioè, non lo so perché poi non so come si è svolta, diciamo così, non ero presente in aula e non posso riportare in prima persona ciò che è stato spiegato in aula. Ma lei ha avuto domande da parte di suo figlio dopo che ha avuto questo manuale? Infatti è che dopo che mi ha fatto vedere le schede, la domanda è stata: ma anche tu fai avanti e indietro con la mamma? Però gioco forza che la faccia la domanda, è chiaro. Diciamo, hanno bruciato un po' i tempi su quello che magari uno aveva progettato di dire ai figli, forse questo sì. Probabilmente sì, anche perché a 10 anni già abbiamo una differenza, diciamo, di maturità fra le femmine e i maschi, perché le femmine normalmente sono un po' più sveglie, i maschi a volte sono più tardoni, normalmente sono più tardoni, poi alcuni maschi sono proprio tardi. Cioè per suo figlio era proprio una novità assoluta quel manuale, proprio non se lo immaginava nemmeno. Assolutamente. Quindi è un bambino non smaliziato, ecco, diciamo la verità. No, sotto questo profilo no. Tant'è che è arrivato a casa sventolando queste schede. Ma rideva, era allegro, vi prendeva in giro oppure era un po' preoccupato? Ma no, né l'uno né l'altro, semplicemente, diciamo così, era smanioso di farmi sapere, di portarmi in conoscenza che avevano fatto questa lezione diversa dal solito, ecco. Io mi sono letto le schede, me la sono riletto un paio di volte, diciamo che una parte non c'era niente assolutamente di strano, così, però si arriva a un punto in cui dice: allora il pene dell'uomo diventa grande e duro, la vagina si inumidisce, all'uomo piace molto quando la donna gli accarezza il pene, alla donna piace molto quando l'uomo le bacia e le accarezza. Diciamolo, fra adulti c'è anche molto ottimismo in quello che la maestra ha messo in questo testo, che mica è sempre così, adesso diciamocelo anche. Sì, non è sempre così. Ecco, uno potrebbe dire, potrebbe accadere altre volte, magari ci si abbraccia soltanto, sì, forse potranno essere un pochino più diluiti nella descrizione. Sì, io guardi, faccio questo esempio, io per altre ragioni vado ogni tanto nelle scuole a fare lezioni di sicurezza stradale. Sì, perché lei è dell'associazione delle vittime degli incidenti d'auto che abbiamo chiamato più volte, quindi esatto, sa esattamente. Esatto. E quindi va nelle scuole e usa altri linguaggi, qual è il... Ma non mi sognerei mai di spiegare a un ragazzino che se l'auto impatta contro il guardrail e il guardrail penetra nell'automobile, poi magari ti stacca la gamba, si tagliano i tendini, la muscolatura, si rompe l'osso, eccetera, eccetera. Cioè, lei dice, c'era un eccesso di particolari, si potrà dire benissimo la stessa cosa in maniera più soffusa. Non vedevo la necessità di questi tipi di particolari. Cioè, se vai a parlare di un ragazzino di 10 anni che alla donna piace quando l'uomo le bacia la clitoride, a questo anche c'era scritto? Sì. Però aspetta, fermo, su Repubblica non c'era, diciamo, da dove ho preso la fonte, da dove ho preso questa cosa. Ah, non so dove ha preso la fonte. No, un articoletto che era uscito su Repubblica raccontava quello che... Probabilmente l'hanno tagliato. Perché allora c'è un particolare... Allora mi chiedo se a 10 anni sappia almeno che cosa sia un clitoride, dove si trova, dietro un orecchio, non lo so. Sì, quello è un po' esagerato, onestamente già richiede una... perizia che devo dire molti adulti ancora devono acquisire, quindi... Sì, io me lo sono già dimenticato, voglio dire. No, adesso scherziamo, però sì, diciamo che c'è una dovizia di particolari, diciamo, poteva esserci, forse... può esserci un livello A e un livello B. Intanto il livello A potrebbe essere più semplice, il papà e la mamma, esatto, si abbracciano, esatto, mette il suo cosino nella sua cosina e sono contenti, come una volta si faceva, il papà c'ha il suo cosino, lo mette nella cosina la mamma, si abbracciano e nascono i fratellini, ecco. Poi una volta era questo. Anche che io non sono un esperto di come si insegna ai bambini, per cui ho un'idea mia, secondo me non poteva non essere così particolareggiato, ma magari è giusto che sia così, solo che questo è giusto che sia così, mi piacerebbe che fosse proprio la scuola a dirmelo e mi spiegasse anche il perché. Ma lei ha fatto qualche domanda? No, francamente no. Dobbiamo un attimo dare la linea, prenda un attimo respiro, perché voglio capire più alcuni particolari, perché da una parte potrebbe essere anche encomiabile lo sforzo della scuola di porre subito un'alternativa a YouPorn, che è onestamente, sicuramente il primo veicolo di risposta alle curiosità dei bambini. È un veicolo veramente truce per un bambino, perché lì si fa idee veramente sbagliate. E forse magari il linguaggio esplicito e l'ascesa nei particolari delle tecniche di titillamento femminile potrebbe essere l'alternativa a YouPorn. Allora a questo punto la maestra ha detto, tanto che ci sia, anzi la professoressa, visto che è una scuola media, già che ci siamo, diciamogli tutto così capiscono esattamente un quadro più completo della situazione. Fermiamoci un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Melog, cronache meridiane. Questi due organi perché si incontrino? Che cosa serve? Se prima di tutto serve un grande amore, un grande amore, un grande amore sublime, grande, soltanto papà e mamma. Gli altri no. Gli altri non è che non ce l'hanno, ce l'hanno anche gli altri, soltanto che gli altri no, e basta. Dunque, allora. Questo è Gigi Proietti, Negli occhi please, una famosa pièce teatrale, dove anche qui parla di educazione sessuale. Mi stanno arrivando molti messaggi, ma il contenuto del libro è stato letto prima dai genitori, perché il luogo privilegiato dell'educazione affettiva e sessuale è la famiglia. Sì, dovrebbe, in teoria. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Io volevo portare la mia testimonianza diretta, nel senso che io ho 47 anni. Quando andavo alle elementari ero a Milano, in una scuola dell'Interland milanese, quindi neanche dentro Milano a Interland, e i miei insegnanti di allora, che erano dei ragazzi poco più che ventenni, se non ricordo male, avevano 23-25 anni, una cosa così, ci fecero fare educazione sessuale in quarta e quinta elementari, quindi sto parlando del 1979 e 1980. Abbiamo fatto educazione sessuale noi che eravamo dei bambinetti, con supporto visivo, diciamo, di un libretto illustrato con disegni semplici che, se non ricordo male, loro si erano procurati, non so se veniva dalla Svezia o qualcosa del genere, però non ne sono tanto sicuro. Quindi materiale non stampato in Italia, perché non c'era nulla, figuriamoci. Credo proprio di no, però non vorrei, non ci metto sì, perché quelli erano gli anni in cui sembrava che in Italia tutti volessero fare la rivoluzione o perlomeno qualcosa del genere. Negli anni 70 c'era molta tensione, però diciamo che l'educazione sessuale nelle scuole non è che fosse avanzata, era una situazione, diciamo, privilegiata. Ma questo ha creato dei problemi a voi bambini? Cioè, se andate a casa a chiedere ai genitori se lo facevano, cose del genere? I nostri genitori credo fossero stati informati preventivamente dell'intenzione, insomma, degli insegnanti di illustrarci determinate tematiche, quindi non c'erano stati problemi. Io ricordo che noi, ovviamente, da ragazzini anche un po' così discoli, insomma, si scherzava, si ridacchiava, però alla fine siamo stati coinvolti bene dagli insegnanti, che erano persone in gamba. Io ho rincontrato uno di questi insegnanti molti anni dopo, gli ho telefonato apposta, sono andato a Milano, gli ho telefonato apposta per incontrarlo, per ringraziarlo proprio di questo particolare evento, perché è stato molto importante, è stato per lei, diciamo, formativo. Però sì, Mauro, e lui mi spiegò i motivi, lui mi disse che erano molto più liberi all'epoca di poter fare iniziative di questo genere. Adesso siamo cascati proprio in un periodo medievale rispetto a allora. C'è da dire però, Mauro, una cosa, che al tempo o c'era l'opuscoletto a scuola che vi spiegava con disegnini innocenti come si faceva, se no, non essendoci internet, l'unica scuola era quella dei compagni più scafati, ti raccontavano cose fantasmagoriche, molte volte approssimative, via dicendo. Quindi hanno fatto un compito senz'altro encomiabile, però ci si muoveva in un terreno più facile. Oggi perché ci si muove nelle scuole per fare educazione all'affettività, perché i ragazzi non pensino che in realtà c'è soltanto quello, come lo vedono rappresentato in rete, rappresentato nei siti zozzi che vanno a vedere in rete, perché se hanno uno smartphone in mano aperto e collegato alla rete è gioco forza, c'è sempre un compagno un po' più scafato e malizioso che faccia vedere agli altri quello che basta scrivere porno e si trova immediatamente. Sentiamo Sara. Sara, buongiorno. Buongiorno, io ho chiamato per esprimere una riflessione, appunto collegandomi a quello che ha appena detto lei adesso, ossia il fatto che i ragazzi di oggi hanno molto più accesso a certi tipi di informazioni rispetto a magari anche solo 20 anni fa o anche meno, però la riflessione che volevo fare è che, visti anche i casi di cronaca, tra le altre cose che si sentono spesso, forse è più il caso di puntare sull'educazione affettiva più che sessuale, cioè la sessualità affrontata da un punto di vista affettivo, del rispetto di se stessi e rispetto dell'altro, anche perché penso, non so quanti degli ascoltatori avranno sentito o visto, ma c'è stato anche un servizio televisivo realizzato da Beatrice Borromeo che intervistava questi ragazzini che già a scuola facevano proprio delle cose nell'ora di ginnastica, magari andando in bagno, però con un certo, diciamo, senso poi di perdita di dignità di se stessi. Allora, che oggi ci sia una precocità maggiore nell'applicazione, nella sperimentazione della sessualità è risaputo, ma ragione di più che il tentativo della scuola, cioè inutile che stiamo a parlargli ancora di fiorellini e di angioletti, tanto vale che diciamo le cose chiamandole con il loro nome, così intanto le basi arrivano da un veicolo diciamo strutturato sulla scuola, su una didattica più generale. Forse per questo hanno usato anche quelle parti esplicite che aveva data qualche piccola perplessità al signor Franco Piacentini di Modena, che abbiamo ancora al telefono. Alla luce di queste telefonate, rimane della sua idea, signor Piacentini? Trova che quelle parti erano forse un po' eccessive? Ma guardi, considerando che comunque una lezione sul tema della riproduzione era già stata fatta, per cui dal punto di vista riproduttivo direi che abbiano già macinato quello che c'era da macinare. Cioè, come se fatti dentro sapevano tutto, dentro, alla parte interna, cioè ovaie, testicoli, sì, tutte quelle cose le sapevano. Sì, ecco. Direi di sì. Gli mancava la parte esterna. Sì, diciamo che sì, a me è sembrato così, di primo acchito mi è sembrato un po'... Non così necessario, ecco, magari forse sarebbe stato un po' più necessario. Ma prima di dare questo opuscolo ai ragazzi, ve l'hanno fatto vedere a voi genitori con la scuola? No. Allora, si era semplicemente approvato una lezione di educazione all'affettività. Che avrebbe dovuto essere tenuta, diciamo, da un pool di esperti, diciamo così. Poi per ragioni che adesso a me sfuggono non sono riusciti a mettersi d'accordo, non so se sui tempi o sulle non sono venuti gli esperti, insomma, e si è rimediato, fra virgolette, con una lezione tenuta dall'insegnante con le fotocopie di questo manualetto, ecco. Esatto. Poi da dove arrivi il materiale, diciamo, quale sia stato il criterio di scelta del materiale, io questo non... Ma non c'è scritto nel manuale chi l'ha stampato, chi l'ha fatto, no, chi l'ha scritto? No. Forse l'ha fatto l'insegnante a casa sua, magari. No, questo è proprio una fotocopia di qualcosa di pubblicato. Vabbè, qualcuno avrà fatto un manuale. Le parti, diciamo, che più le danno fastidio è quella lì, diciamo, dei preliminari amorosi, forse quello. Ma diciamo, più che fastidio mi chiedo se sia, diciamo così, la maniera più corretta per una quinta elementare di spiegare determinate cose. Poi voglio dire, è vero che c'è YouPorn, è vero che ci sono i cellulari, però il cellulare ce l'hanno se il genitore gli consente di averlo e soprattutto se gli fa un abbonamento ad internet, se no il cellulare funziona come telefono. Che però ce l'hanno il 99% dei bambini a scuole medie. E ognuno sceglie, voglio dire, io a casa mia il cellulare non ce l'ho, cioè perlomeno non i miei figli, perché non mi sembra che per il momento ne abbia bisogno. Se avrà bisogno di un cellulare, gli comprerò il cellulare, non è detto che gli dia una connessione internet. Stessa cosa a casa abbiamo un PC, ci sono restrizioni, se non bastano si dà un'occhiata alla cronologia e si guarda un attimo. No, questo è molto chiaro quello che dice lei, signor Piacenti. Dice: io la mia famiglia la sto educando così, un graduale accesso a quelle che sono le fantastiche meraviglie delle condivisioni online. E in questo percorso, che è un percorso più lento ma secondo lei più strutturato, forse non c'era bisogno che spiegassero a mio figlio come si lecca una donna fra le gambe, perché magari lo avrebbe capito un po' più là, quando gli avrebbe dato meno ansia a pensare, e poi questo magari poteva accadere anche di là di quella porta di camera da letto dei genitori. Ci fermiamo ancora un istante. Melog, Cronache Meridiane. Scrive un ascoltatore per Nicoletti: la vostra pruderie, unita ai sospiri che si sentono al microfono nella descrizione dei particolari di eccitazione, è ridicola. Ulisse, mi sentirà il respiro un po' affannato per motivi che ho di bronchite in questo momento, ma che mi ecciti veramente leggere quella ridicolata mi fa onore, veramente, avrei un'eccitazione molto facile. Non per fare la maestria, ma la pruderie è la sua, non è la nostra. La nostra può essere sfrontatezza, può essere senso, mancanza di senso del pudore. La pruderie è la sua, che si sente colpito nel suo pudore da quello che noi diciamo e dal mio sospirare di eccitazione. Daniela, buongiorno. Daniela, no. Sì. Se io sospiro è perché sono un po' emozionata, non vabbè, per pruderie. Vabbè, fa piacere. Ecco. Confondo però la pruderie è il contrario, esattamente il contrario. Pecca di pruderie la persona pudibonda che si scandalizza, l'altra è sfrontatezza. Ecco, lei se mai si sospira è sfrontata, ecco. Ecco, però mi sarei sentita un pochino in imbarazzo ad affrontare effettivamente gli argomenti con mia figlia, che il prossimo anno va alle medie. Ancora piccolina, certo. A scuola è stato affrontato in maniera molto serena e in maniera, diciamo, tecnica da un punto di vista dell'apparato riproduttore femminile e maschile. Per cui credo che mia figlia, se dovesse venire a contatto con un video come si parlava su YouPorn o su qualche film un po' più spinto, lei perlomeno abbia le conoscenze di cosa effettivamente poi avviene durante un rapporto e quello che magari è meramente sesso o piacere. Però dal mio punto di vista è stato corretto affrontarla a scuola in maniera tecnica. Ma è giusto, perché è la parte che più di cui più abbiamo sempre mancato noi generazioni più attempate. Sì, sapevamo più o meno come si faceva, ci industrevamo con le nostre aiutandoci con le nostre stesse mani, ma alla fine cosa accadesse dentro si arrivava a saperlo quando si cominciava a studiare. È vero, oggi nelle scuole cominciano a spiegare l'apparato riproduttore, intanto capiscono come funziona dentro, poi man mano quelle tavole anatomiche diventano degli oggetti usabili. Questa è la fase più delicata: come usarli, quando usarli, in che maniera usarli e con quale delicatezza usarli. Questa è la parte secondo me più delicata, perché spiegare come funzionano le ovaie, come funzionano i dotti seminali, come spiegare come funzionano i reni o l'apparato circolatorio, sono organi anatomici. Quando si rivestono di quella che per natura, per cultura, per convenzione, per pruderia appunto è stata sempre considerata la zona innominabile del peccato, c'è ancora qualche difficoltà, Daniela, vero? C'è qualche difficoltà, però mia figlia ormai ha capito, dato che è una donna e che è la mia preoccupazione, saprà cosa succede durante un rapporto e cosa le succede eventualmente se il rapporto non è protetto. E quindi io che sono mamma e una figlia femmina, per me è molto importante questo. Sì, infatti di tutto questo discorso che abbiamo iniziato sulla scuola di moda mi mancava un passaggio. Se sono tanto espliciti a spiegare anche i preliminari e le titillazioni orali, avranno anche spiegato che esistono preservativi, esistono possibilità di contrarre malattie e via dicendo. Questa è una cosa fondamentale, magari, ancora prima, ma non perché non debbano spiegarlo, è giusto che lo spieghino, perché sennò si ritrovano oggi attempati quarantenni che di fronte a una richiesta di quel tipo storcono la bocca e dice: Dio mio, che cose, queste cose non le faccio. Ecco, magari se cominciano a piccolini a capire che alle donne piace, potrebbe magari aiutare tutto il genere umano. Alessandro, buongiorno. Alessandro, sì, l'ascolto. Sì, l'ascolto. Sono in macchina, spero mi senta bene. Ma io devo dire che sono un po' preoccupato anche da questi ultimi discorsi. Mi riferisco a ciò che ha detto un ascoltatore poco fa di Milano, credo, che aveva fatto educazione sessuale a scuola. Io ho un'esperienza molto diversa, perché avendo fatto la scuola dai preti, per me l'educazione sessuale quale era inesistente. Cioè, quella quando ti, no, è quella quando ti mettono le mani addosso i preti, era l'unica educazione sessuale. C'era magari quel rischio lì. A casa non c'era nulla, e quindi faccio riferimento a me. Com'è che ho fatto la mia educazione sessuale? Ahimè, con i giornaletti che si andava a comprare di nascosto all'edicola, c'era Le Ore, c'era Super Sex, il bianco e nero. Però i fixi fix tzen tzen. Esatto. La mia paura però di oggi è relativa ai miei figli che hanno 10 e 13 anni, è che se faccio il riferimento a loro, come possono fare la loro educazione sessuale oggi se non gli viene fatta a casa o a scuola nel modo corretto? Diciamo che a 13 anni è inutile farsi illusioni, già l'hanno avuta educazione sessuale, già sanno tutto, bisogna capire come gli è stato spiegato, da chi, in che maniera, attraverso quale veicolo, perché che a 13 anni ancora abbiano dei dubbi di come si debba operare mi sembra molto strano e molto ottimistico, sinceramente, no? Dubbi no, ma il rischio è il materiale a cui possono accedere, perché capiamoci bene, oggi non c'è più il sesso patinato delle riviste, sì, degli anni 70-80, oggi mio figlio può accedere a del materiale sadomaso, può accedere ha del materiale molto spinto online, in modo molto facile. Allora, l'educazione sessuale, che deve essere abbinata all'educazione sentimentale, dovrebbe essere un punto fisso nelle nostre scuole. Ma infatti il problema è questo, il problema è che i ragazzini a 13 anni si guardano i filmini, poi si sentono che gli manca qualcosa se non sono come Rocco Siffredi. Idem le ragazzine, se non hanno un'albicocca spelata, gli sembra di stare in un mondo incivile. Questo è il problema, è che il modello della pornografia, che comunque è un genere di consumo per adulti, nulla in contrario che possa esistere, però come imprinting è un imprinting un po' esagerato, è come se la vita si affrontasse soltanto leggendo romanzi d'avventure, e poi uno deve affrontare il proprio quotidiano da geometra, da commercialista, da falegname, da professore di scuola e via dicendo, è un'altra cosa. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Volevo portare la mia testimonianza, io ho 24 anni e 10 anni fa alle medie ho ricevuto la prima lezione di educazione sessuale, ok, in seconda media. Com'è andata? È stato simpatico, perché sono venuti degli specialisti con una televisione, con un video, degli alieni con le trombette che si vogliono bene. Come gli alieni con le trombette? sì, gli alieni con le trombette. Ma non erano esseri umani? Bene. No, non era. Era molto improntato sul cartone animato, sull'animazione, sul gioco. Ma perché gli unici a trombare devono essere gli alieni con le trombette? Scusi. Sì. E gli sì, umani? Sì, sì, sì. E che facevano gli alieni? No? Perché questi alieni volevano bene, che al posto del pene avevano questa trombetta che si ergeva e si abbracciavano, e era molto poco dettagliato, diciamo. E la donna che c'aveva, scusi, no, perché a sto punto mi interessa. Niente. La donna era sempre una donna aliena, no, non aveva niente. Ma perché? Però, diciamo, i bambini a forza senti dire tromba, ecco, si capivano. Esatto, esattamente. Però la cosa paradossale che mi è sembrata è che in seconda media io già avevo visto tutto in diretta dentro quella classe, e vedere gli alieni con le trombette mi sembrava una cosa abbastanza ridicola. Quindi lei dice meglio che gli alieni con le trombette e i disegnini in cui si dice esattamente cosa sono i sospiri, sentono al di là della porta, e quindi abbiamo un problema in meno. Mi sembra saggia e giusta conclusione di questa chiacchierata quotidiana. A domani.